Davis, Frankie, voglio il mondo viola. Qui ci vuole coraggio, oltre a molta pazienza. Vivo questa circostanza che avanza fuori dal seggio elettorale statale. Non vale più la conoscenza se si pensa a tirare fuori l'ognuno solo il peggio. Quale cazzeggio, ci chiamano bamboccioni. Sti politici si asciugano il culo con i milioni. Ci fanno intimidazioni, ci vietano professioni. Ma lo sai, io me ne andrei come il pezzo di Baglioni. Per mantenermi svolgo mille commissioni, di ping e do lezioni tra 100.000 mansioni. Però intanto il mio stipendio rimane sempre lo stesso. Lavoro fino a tardi e la mattina mi alzo presto. E ancora resto a casa con i miei. Ma tanto a quel babbetto il Parlamento non importa. Se il mio contratto dura un anno oppure un giorno, non gliene frego un corno, sapremo una vita corta. Storta, corrotta da chi dice che ti ama e poi ti butta dentro fondi pochi. Ma senza Moana non è la vita puttana, lui è la stirpe che regna. I soldi e la fama bloccano la gente che sogna. È una gogna mediatica, rogna antipatica, carogna chi in pratica, pratica sta politica. Io non ci sto, non puoi chiamarci bambocci. Darci una prospettiva di vita, non darci gli stracci. Hey, siamo sempre gli stessi precari. Ci alziamo la mattina e siamo immersi nei pensieri. Hey, siamo seri oggi più di ieri. Studiamo e lavoriamo solo per 30 denari. Hey, siamo sempre gli stessi precari. Ci alziamo la mattina e siamo immersi nei pensieri. Hey, siamo seri oggi più di ieri. Studiamo e lavoriamo solo per 30 denari. Per 30 denari? No, no. Se siamo dei mammoni, voi siete dei coglioni. Se siamo gioventù bruciata, voi restate una cagata, amico bada. Presto orecchio e fai attenzione, questo è un argomento serio. Per esaltare il mio onore, un contratto da precario con un minimo salario. Tento a dare sempre il meglio in questa vita di bordello. Non sono un ottimista in questa situazione fissa. Tento ad essere pacifista, ma la vita mi calpesta. Non voglio fare niente, pensa un fottio di gente. Insegnami il mestiere anche a spazzare, non mi frega niente, apprendistato. In questo stato non esiste, benvenuto nel partito dei mammoni. Candidare quale scarsa fatica, ho studiato per mesi, ho portato sti pezzi fangosi come l'acqua briga. E dopo avere preso i titoli ho fatto mille lavori diversi dalla qualifica che adesso mi identifica. Lavoro tutti i giorni, anche quelli in cui tu dormi. Prendo sempre poco anche se faccio due lavori, quindi sono dolori. Io non cerco tesori, cerco tempi migliori dentro i quali sistemarmi. Sto con la gente giovane, quella che scoppia, quella che lavora per raggiungere una tappa. Sopra la mia tavola non è pronta la pappa, qui l'unica scappa resta pano a schioppa. Hey, siamo sempre gli stessi precari. Ci alziamo la mattina e siamo immersi nei pensieri. Hey, siamo seri oggi più di ieri. Studiamo e lavoriamo solo per 30 denari. Hey, siamo sempre gli stessi precari. Ci alziamo la mattina e siamo immersi nei pensieri. Hey, siamo seri oggi più di ieri. Studiamo e lavoriamo solo per 30 denari. Hey, siamo sempre gli stessi precari. Ci alziamo la mattina e siamo immersi nei pensieri. Hey, siamo seri oggi più di ieri. Studiamo e lavoriamo solo per 30 denari. Hey, siamo sempre gli stessi precari. Ci alziamo la mattina e siamo immersi nei pensieri.